Senza peccato, senza verità. Leggo nella Bibbia in 1 Giovanni capitolo 1 versetti 8 a 10. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Io non ho fatto niente, non è colpa mia. Da Adamo ed Eva in poi gli uomini hanno sempre cercato scuse per non assumersi la propria responsabilità davanti a Dio. La negazione della propria colpa fu proprio uno dei primi risultati del peccato e da allora accompagna l'uomo nel suo cammino sulla terra. Anche nel primo secolo, quando questa epistola fu scritta, si erano infiltrati nella Chiesa falsi insegnanti che, probabilmente influenzati dal dualismo, che poi troverà una radicalizzazione nello gnosticismo dei secoli successivi, erano convinti che lo spirituale e il materiale fossero nettamente distinti. Ciò che contava era la vita spirituale, la parte buona, mentre la vita fisica, che comprendeva le proprie azioni, era intrinsecamente cattiva, ma priva di importanza. Di conseguenza, si poteva essere in comunione con Dio e continuare a vivere nel peccato. Gran parte di queste epistole è scritta proprio per controbattere queste eresie. Oggi, dopo 2000 millenni, in forme diverse, l'uomo continua a negare la realtà del peccato. Con l'idea della rimozione del senso di colpa, sviluppatosi in particolare a partire dall'opera di Freud, si tende ad attribuire la responsabilità del proprio comportamento alla società, al contesto in cui si vive, alla famiglia, alla religione cristiana, che viene quindi guardata sempre più con sospetto, proprio per l'idea di peccato che viene ritenuta destabilizzante per l'individuo. In un mondo postmoderno, permeato dal relativismo, inoltre la maggior parte delle persone è abituata a non pensare più in termini di moralità assoluta e rimane piuttosto indifferente di fronte all'annuncio della salvezza, proprio perché non ritiene di averne bisogno. Ognuno ha la propria morale, ognuno ha la propria verità. Diversi movimenti, ad esempio Scientology, di Ron Hubbard, promuovono modelli secondo cui l'uomo è fondamentalmente buono ed in grado di vivere nella felicità tramite il buon senso, la buona volontà, le buone opere, senza la necessità di un Dio. Anche l'atteggiamento di molti cristiani sull'argomento non aiuta le persone a comprendere il proprio stato di peccato. Infatti molti continuano in fondo a vivere secondo l'idea dualista, pensando di avere un buon rapporto con Dio, pur vivendo in maniera libertina. E quindi le persone non vedono alcuna differenza che possa portarli a riflettere sulla necessità di una conversione. Per molti predicatori moderni, inoltre, c'è stata la scelta di predicare il Vangelo senza insistere troppo sul peccato. Si preferisce parlare di sbagli, di errori, di un Gesù che è più un amico che ci aiuta a risolvere i nostri problemi, piuttosto che un Salvatore e un Redentore. Viene in questo modo presentato un Vangelo più accettabile, ma certamente non si favoriscono vere conversioni. Ci troviamo così in una società in cui ormai la parola peccato è considerata desueta. Anche se l'uomo nel tempo cambia i propri costumi, le proprie ideologie e i propri paradigmi morali, Dio non cambia la sua opinione nei confronti dell'uomo. Il suo piano di salvezza per l'uomo rimane sempre lo stesso. Come ricordato in questi versi, abbiamo solo due possibilità. Possiamo continuare a negare il peccato o a scusarlo, dichiarando di fatto che Dio è bugiardo e che siamo a posto così. Oppure possiamo ammettere che siamo peccatori, bisognosi del perdono di Dio, della purificazione e della trasformazione che Dio può operare in noi. Il primo segno nella vita di una persona che sta cercando Dio è proprio la convinzione di essere un peccatore e il bisogno del perdono di Dio. L'uomo che incontra Dio si rende conto che non potrà mai con le sue forze essere considerato giusto da Lui. Si rende conto che ha bisogno che Dio operi in lui per trasformarlo. Quando l'uomo accetta la salvezza di Dio in Cristo, da quel momento in poi egli non considererà il peccato come qualcosa di normale, ma come qualcosa che, con l'aiuto di Dio, deve essere combattuto. La sua prospettiva cambia totalmente. L'uomo che si ostina a non ammettere il suo stato di peccato davanti a Dio non ha possibilità di arrivare alla verità. E tu, sei di quelli che fanno Dio bugiardo?